rompe la sponda, e rompe la sponda. Altera si spande, ne campi quell'onda. Altera si spande, ne campi quell'onda. E freno, no, no, e freno, no, no. La gioia è si grande che l'anima sente, che il cuor si risente dentro se stesso l'estremo piacere. Chiuder non sa, l'estremo piacere, chiuder non sa. Capi quello che mi